Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente il tema che si è aperto tra lunedì dopo le 15 e anche ieri dopo la relazione, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, resta tutto. È chiaro che a livello politico serve un'iniziativa, l'avete letto oggi su tutti i giornali, un'iniziativa di carattere prevalentemente economico. È chiaro che il governo a questo punta, è altrettanto chiaro che da quest'anno fino al 2013 è prevista una manovra che porti il deficit a zero entro il 2013, che vale 40 miliardi su 3 anni, e allo stesso tempo l'Europa chiede, con le nuove regole che l'Italia ha firmato, di ridurre il debito, cioè l'insieme dei deficit più i tassi di interesse pagati su questi deficit, di ridurlo di un ventesimo all'anno, che visto il debito che abbiamo noi, cioè siamo al 119% del PIL, ma soprattutto siamo 1843 miliardi di euro, un ventesimo all'anno significa, come anche la Corte dei Conti ha ricordato, circa 45 miliardi di euro all'anno. Ora, con queste cifre cercheremo di capire anche oggi quale sia, come si dice con una frase un po' retorica e scontata, lo stretto sentiero per tenere i conti a posto, non subire gli attacchi dei mercati, non fare la fine di altri paesi dell'area mediterranea, e dall'altro avere iniziative che rilancino l'economia. Vorrei usare come frase figurata quella che ha usato il ministro Brunetta, che dice: Tremonti è stato bravissimo nel dare gli antibiotici al corpo, ossia al corpo malato dalla crisi. Adesso però servono anche le vitamine, un corpo non si riprende solo con gli antibiotici ma anche con le vitamine. Mi sembra un esempio efficace, bisogna capire se ci sono i soldi per le vitamine, perché è chiaro che la priorità quando stai male va agli antibiotici, però senza vitamine non esci in maniera robusta, questo è poco ma sicuro. Parleremo in apertura però di un tema su cui abbiamo ricevuto centinaia di mail, messaggi, frasi sul sito di Focus Economia su Facebook, sulla pagina di Focus Economia su Facebook, ed è il caso dell'autista, non il tassista, l'autista di Mantova, ossia come internet possa aiutare le imprese, che rientra nel filone più generale di quello che le imprese possono fare per se stesse, pur lamentando gli scarsi aiuti della politica. Ma c'è anche un lavoro interno che si può fare, spesso ne abbiamo parlato: aumentare il patrimonio, investire in ricerca e sviluppo, mettersi in rete quando si è piccoli per andare sui mercati grandi dove serve massa critica, lavorare con le banche e anche utilizzare un po' di più quello che è l'opportunità offerta da internet. I numeri sono importantissimi, le previsioni ancora di più, numeri come intesi come volume d'affari e fatturato possibile, potenziale, in chi sapesse usare internet. Vuol dire in questo momento anche e soprattutto i social networks, non solo, diciamo, la connessione ad internet o l'utilizzo del computer per i modelli di Excel, tanto per capirsi. Questa è preistoria visto quello che sta capitando. Poi, come sempre, anche i mercati finanziari. Per quello che riguarda la borsa, adesso vi darò subito l'aggiornamento a brevissimo, ma vorrei anche avremo anche degli approfondimenti su due aspetti particolari. Come ha anticipato la società, l'agenzia di informazione e di stampa Radio Coro Sole 24 Ore, è stato arrestato Simone Cimino, finanziere siciliano, già capo della società di investimento Cape Nactis e vicepresidente di Cape Live. Vi faremo ascoltare perché Cimino fu nostro ospite più di una volta, perché era uno dei soggetti che avevano fatto offerte per sostanzialmente la Fiat di Termini Imerese. Ricorderete la vicenda dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Ebbene, è stato arrestato, ne parleremo anche di quelle che sono i capi di imputazione e poi la vicenda Banca Intesa, 10.000 esuberi annunciati per Banca Intesa. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Sì, taglia la spesa. Ripartiremo, vedo alcuni messaggi, ripartiremo dalle parole del governatore Mario Draghi ieri, tagli alle tasse e tagli mirati alla spesa, lì la critica più forte a Tremonti, non tagli orizzontali. Comunque, i mercati, meno 1,12% in questo momento Milano, in linea, devo dire, con le altre borse europee, meno 1% Parigi, meno 1% Francoforte, e Londra meno 1,20%, l'America perde l'1,1%, quindi tutte allineate le borse quanto all'entità del calo. Euro a quota 1,44,32 in rafforzamento, tra i titoli segnaliamo tra i migliori TOZ più 2,70%, di Assorin più 1,70%, tra i peggiori Monte dei Paschi, qui cercheremo di capire che cosa sia successo, ve ne parleremo, meno 7%, un tonfo pesantissimo per il Monte dei Paschi, che devo dire si spiega solo in parte con l'andamento del settore bancario. Il Banco Popolare perde il 3%, Ubibanca il 3%, Popolare di Milano il 2,70%, Intesa San Paolo il 2,70%, Unicredito meno 2,40%. Vanno bene le banche in tutta Europa, va detto. Monte dei Paschi risente anche del collocamento di 450 milioni di euro di azioni preferenziali vendute dalla Fondazione Monte dei Paschi. Negativi anche altri titoli, Fiat meno 1,5% nel giorno in cui escono i dati sulle matricolazioni alle 18, Finmeccanica pure perde l'1,5% come l'Automatica, l'1,4% lo perde Mediobanca e Mediolanum, l'1,3% il calo di Mediaset e di Eni, in pregilo meno 1%. Oro in leggero calo, 1532 dollari, petrolio in rialzo a 103 dollari, della Cassazione già sapete tutto, la Cassazione ha deciso che si terrà il referendum anche sul nucleare il 12 e il 13 giugno, vi dico già che siccome l'altro quesito importante è quello sull'acqua, avremo la prossima settimana una puntata, non dico tutta, ma quasi tutta dedicata al tema della privatizzazione dell'acqua. Le dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, stupore per il parere della Cassazione, il governo pensava infatti che con la moratoria sul nucleare avrebbe evitato il referendum. Dall'America, il governo americano potrà far fronte ai suoi impegni senza un aumento del tetto del debito solo fino al prossimo 2 agosto. Se entro quella data il Congresso americano non avrà agito e aumentato il limite del debito, ci sarà il default. Parliamo del default, ossia del fallimento del debito americano, una cosa che insomma per ora resta accademia, avrebbe conseguenze catastrofiche, come dice lo stesso Dipartimento del Tesoro americano. E questo perché la Camera ha bocciato un aumento da 2.400 miliardi di dollari del debito. Perché i deputati, il Congresso americano ha voluto dare un segnale a Barack Obama: senza un piano di riduzione del deficit non passerà un aumento del tetto complessivo del debito americano. Faccio notare che buona parte di questo deficit e quindi anche il debito americano è stato imbarcato per salvare il mondo bancario, le compagnie di assicurazioni, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac e quant'altro. Dei 10.000 esuberi di Intesa San Paolo parleremo più avanti, ha ragione chi scrive, valgono anche quelli come i 2.500 di Fincantieri, ci mancherebbe. Tra l'altro il segretario generale della FABI, Lando Sileone, la FABI è il sindacato più grosso dei bancari, ha detto è socialmente vergognoso l'annuncio di 10.000 esuberi del gruppo Intesa San Paolo, ma è sconcertante anche il silenzio della classe politica che assiste senza intervenire a questo scempio. Ne parliamo dopo i mercati. Partiamo con il primo tema allora, e mi riferisco alla vicenda dell'autista di Mantova, citato dal numero 2 di Google al G8, quello di Deauville, è diventato un personaggio famosissimo. Da lì siamo partiti, l'abbiamo intervistato, lo ricorderete venerdì scorso. Torniamo oggi sul tema perché ci sono arrivate molte mail e molti vogliono sapere, ma insomma, che cosa può rappresentare internet per un'azienda. Parleremo anche delle ganasce fiscali, della sospensione delle ganasce fiscali decise dal governo. Vengono ridate le competenze ai comuni per quello che riguarda le multe, ma insomma andiamo con ordine. Chi se la fosse persa si ricorderà che venerdì scorso abbiamo avuto come ospite Federico Hoefer, creatore di un sito di noleggio auto con conducente, chiaramente, NCC, ladyblue.it, 45 anni, siciliano, emigrato da Gela al nord, prima a Brescia nel 95, poi a Mantova. Era responsabile vendita di alcune aziende, ne ha cambiate tante, poi ha perso il lavoro con la crisi, nel 2009 resta disoccupato e si inventa questo sito di noleggio auto con conducente. Detta così sembrava, no, la differenza è che lui ha usato in maniera saggia i social network, internet, e questo gli ha permesso non solo di avere un lavoro dignitoso e aumentare il fatturato di anno in anno, ma anche appunto di essere citato come esempio anche per le micro imprese di quello che può fare la rete generalmente data. Sentiamo questo passaggio in cui Hoefer ci ha spiegato come è riuscito ad avere le sue pagine presenti nei più importanti motori di ricerca internazionali. Sostanzialmente, ve lo anticipo, lui quello che dice è quello che ha fatto, ha pagato alcune parole chiave, alcuni domini, in modo che qualunque turista straniero che arrivasse in Italia e avesse cercato un autista per andare sul lago di Garda, per andare all'aeroporto di Verona, all'aeroporto di Bergamo, all'aeroporto Malpensa, lui appariva abbastanza alto, come si dice in gergo, nella ricerca fatta su Google o su altri motori di ricerca. Comunque sentiamo come ci ha spiegato il valore aggiunto di internet. Le parole di ricerca fondamentali sono noleggio con conducente, ovviamente, poi le parole degli aeroporti, ovviamente, perché i servizi maggiormente uno li fa sugli aeroporti, in linea di massima. La parola taxi non è il massimo, nel senso che non è proprio adatta al tipo di attività, però la gente non conosce NCC, che sta per noleggio con conducente, conosce taxi, quindi spesso cerca il taxi, poi tu in seguito gli dici noleggio con conducente. Basta, quindi sì, ho cercato di posizionarmi, ripeto, con alcune parole chiave che possono essere noleggio un conducente aeroporto X, e la gente faceva in modo di far uscire appunto i miei siti più in alto possibile. Quello che fanno tutti quando cercano qualcosa in linea di massima, ecco. Lui l'ha fatta facile, ma in realtà questo gli ha consentito di trovarsi un lavoro e di aumentare, come ci ha raccontato, il fatturato di anno in anno, appoggiarsi anche a altre agenzie. Vorremmo aprire il tema, visto il numero di richieste che sono arrivate da imprenditori, commercianti, parte IVA, vorremmo aprire il tema. E allora ci ha raggiunto in studio il professor Marco Camisani Calzerari, che è direttore scientifico del progetto Confindustria Veneto per promuovere l'uso del digitale tra le imprese associate, e insegna anche linguaggi digitali alla IULM di Milano. Buonasera. Buonasera. Grazie anche a Fabrizio Angelini, amministratore delegato di Demoscopea, e grazie anche a Gianluca Borsotti, amministratore delegato e fondatore di eBit Innovation. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Perché i nostri ospiti? Perché hanno realizzato un sondaggio, Demoscopea e eBit Innovation, il terzo osservatorio sull'e-business, su come usano le imprese questo strumento. Allora, vediamo di capirci, perché i dati che abbiamo sotto gli occhi sono un po' in contrasto. Ossia, l'Istat dice che il 95% delle imprese con almeno 10 addetti usa il computer, il 93% la connessione internet, l'80% la banda larga, 6 su 10 hanno un sito web, l'86% usa internet per accedere ai servizi bancari e finanziari, e una su 3 acquista materiali e forniture attraverso internet. Solo il 5%, questa è una nota dolente anche per l'Istat, vende online. E la Confindustria invece, in un sondaggio di cui adesso ci parlerà anche Camisani Calzolari, dice una cosa un po' diversa, ossia su 100 imprenditori praticamente che non usano la banda larga, ben il 61% ha detto non serve e non saprei come usarla. Allora, la domanda è molto banale, Camisani Calzolari, Insomma, le imprese sono, pur con, non saranno ai livelli alti dell'Europa, ma insomma si sono mosse verso l'informatizzazione, l'uso intelligente, non solo quello interno vecchio, della rete, quindi di internet e delle tecnologie, oppure no, veramente? Guardi, allora, che questo sia un paese un po' analogico non ci sono dubbi. Le imprese sono fatte di persone, quindi anche le ricerche, che ben sappiamo non essere molto positive, di Audiweb, insomma, sull'uso di internet in Italia, che vede alla fine che all'incirca il 77% non si collega tutti i giorni o proprio non si collega, e questi sono gli individui, non le aziende. Beh, sono poi gli stessi uomini dell'azienda, in particolare l'Italia è fatta di aziende piccole che hanno grande difficoltà non solo dal punto di vista culturale, ma anche poi, voglio dire, da quello pratico, perché ci sono regioni, e il Veneto è una di queste peraltro, che peraltro ho appena visitato pur essendo lombardo in questo roadshow, non hanno la connettività, e anche se quando la possono avere riescono ad averla perché la rete glielo consente, beh, non sanno davvero cosa farsene. Se hanno in casa il figlio di quel genio, il genio di quel figlio del proprio amico, o piuttosto che loro sono direttamente degli appassionati, beh, riescono a fare qualcosa, altrimenti sono assolutamente lontani dalle opportunità che invece il digitale può offrire, e le può offrire anche alle piccole e medie imprese, non solamente alle micro o a quel micro imprenditore, che quell'autista che è riuscito a creare un business che insomma alla fine certamente è un fenomeno, ma è fondamentalmente sicuramente stato un grande appassionato che è riuscito in prima persona a comprendere le logiche che oggi possono alimentare o far generare quei fatturati. E poi veniamo anche a cosa potrebbe fare Confindustria, cioè come educare questi imprenditori. Ma insomma, Gianluca Borsotti, mi sembra di capire che al di là delle percentuali, che poi analizzeremo anche con il dottor Angelini, il problema non sia solo, mettiamolo così, della connessione in sé, ma dell'uso che ne fa. È come avere una macchina e usarla per andare da casa all'ufficio e dall'ufficio a casa. L'automobile di solito ha permesso uno spostamento un po' diverso che non quello, diciamo, dalla casa all'ufficio. È come guidare un'auto in terza. Ma sicuramente il web offre tantissime opportunità. Nasce negli anni 90 con una idea di comunicare, come strumento di comunicazione. Si evolve poi, sempre negli anni 90, verso la costruzione di una relazione col consumatore, e attualmente invece siamo a livelli di utilizzo del web quale strumento di marketing o addirittura di costruzione di una relazione sui social media. Ecco, questo è un po' il percorso che il web mondiale sta facendo. Poi, come l'Italia in questo mainstream mondiale si stia muovendo, questo è sicuramente un fenomeno che vede luci e ombre. Sicuramente la piccola e media impresa risulta essere un po' rallentata in questo scenario, e forse deve ancora pensare ad approcciare il web, o se lo approccia lo vede come uno strumento per comunicare che cos'è l'azienda e comunicare quali sono i propri prodotti. Certo, bisognerebbe cominciare a ragionare invece in termini di costruire una relazione che sia una relazione di fidelizzazione e di engagement col consumatore, che poi possa addirittura sfociare in una relazione economica con l'e-commerce e questi strumenti più evoluti. Per non parlare poi di tutto il mondo del mobile, che è un altro tema che attualmente le aziende italiane di medie dimensioni stanno cominciando ad approcciare, mentre sulle piccole e medie purtroppo i dati sono ancora molto sotto media. Dal che capisco che, come spesso avviene in questi casi, non sempre, ma il problema c'erano più le piccole e le medio piccole che non le medie e medio grandi, e questo è immaginabile: più risorse all'interno, più struttura hai anche, che comunque ti sollecitano, in qualche modo ti fanno anche formazione interna. Se non hai la struttura interna, difficilmente verrai aggiornato. Dico, non è sempre così, perché abbiamo visto delle innovazioni di prodotto e di processo incredibili anche nelle piccole imprese. Mi sembra che sul tema del web invece le dimensioni rappresentino una differenza e un distinguo importante. Dottor Angelini, come spieghiamo però i dati che citavo prima, i vostri e quelli anche dell'Istat, che sembrerebbero essere molto più positivi, cioè non rispecchiare la fotografia che ha fatto Camisani Calzolari delle piccole e medie imprese italiane? Ma noi abbiamo fatto un ragionamento che è molto semplice, cioè abbiamo cercato di incrociare la prospettiva, il punto di vista dei consumatori con un panel molto rappresentativo del mondo consumer e degli utenti internet, con tutte quelle aziende che erano interessate a darci la loro opinione sull'utilizzo del web. Abbiamo inviato, diciamo, a tutti i clienti che in qualche modo abbiamo, con cui abbiamo lavorato, che abbiamo intervistato negli ultimi anni, l'invito, diciamo, a partecipare al questionario. Noi abbiamo avuto un livello di redemption molto alto, perché abbiamo avuto 423 aziende che hanno risposto. Chiaramente già nella segmentazione di chi ha risposto è evidente che le aziende più interessate al fenomeno sono le aziende grandi. Per darle un dato che chiaramente indica la rappresentatività del nostro campione, il fatturato medio è di 385 milioni di euro, quindi parliamo comunque di medio grande aziende, con una percentuale. Poi è ovvio che nella distribuzione ci sono anche tante aziende piccole, forse ho capito l'arcano, Angelini, e cioè, come sempre, i dati sono tutti e due giusti, tutti e due veri. Il vostro si applica però a delle imprese già di dimensioni. So che fa ridere dire che 300 milioni sono dimensioni, sì, esatto, importanti, però, esatto, però in Italia sono già importanti. Assolutamente sì. Io, come dire, su questo sarei onestamente anche più rilassato, perché per esempio il 40, oltre il 40% erano aziende con un fatturato inferiore ai 50 milioni, diciamo il 31,6 nella fascia fra 51 e 300. Indubbiamente, diciamo, il panel delle aziende che ha avuto un interesse a rispondersi, a confrontarsi con questi temi, è un panel costituito da medie e grandi aziende con una percentuale importante per esempio di filiali multinazionali, un terzo sono, diciamo, branch locali di gruppi internazionali. E questo però, secondo me, voglio dire, è anche un po' un peccato, nel senso che poi invece le barriere all'ingresso e anche gli investimenti che richiedono, diciamo, le applicazioni web, le strategie di e-commerce piuttosto che di infocommerce, piuttosto tutto quello che sta accadendo, diciamo, in applicazioni innovative che vanno da IQR alla realtà aumentata, sono fondamentalmente molto bassi, cioè sono delle soglie che sono accessibili anche per piccole e medie imprese. È più un problema culturale, secondo me, che una barriera all'investimento. Allora, su questo non c'è dubbio che internet avrà tanti limiti, ma l'investimento non è mai un investimento così massiccio, così imponente come quello in macchinari o quando innovi appunto il processo aziendale, quando devi ristrutturare la catena di montaggio o aprire sedi all'estero. Sono investimenti obiettivamente più contenuti. Vorrei un ultimo giro di risposte su una cosa molto semplice che forse però vi mette in difficoltà. Mi date un esempio, posto che si debba fare formazione su questo, vorrei però una battuta di Camisani Calzolari, cosa fa, visto che lei è consulente ed è direttore scientifico anche del progetto Confindustria Veneto, cosa fate per formare gli associati? Ma insomma, io vorrei da voi un esempio di un'applicazione internet, un po' come il tassista, oddio cosa ho detto, l'autista di Mantova che grazie ad internet ha clienti da tutto il mondo, riporta da Malpensa, da Verona, da Bergamo, sul lago di Garda. Ha fatto una cosa molto banale, ha pagato le voci, i domini su Google, ci ha spiegato anche quanto, 3-4 centesimi ogni cliccaggio se non ricordo male, e ha messo taxi, ha messo lago di Garda, ha messo aeroporto Malpensa, una cosa che, se detta così, è una banalità, però lui, per lui ha voluto dire la differenza tra la disoccupazione e uno stipendio decente. Ecco, vorrei anche da voi un'idea. Prima però Camisani Calzolari sul quello che state facendo per le imprese. Allora, innanzitutto la metafora automobilistica che ha fatto lei prima è perfettamente azzeccata, perché se da una parte è molto semplice salire su un'automobile, più o meno il volante, il cambio, insomma, mio figlio di 7 anni se si sbaglia riesce a metterla in moto. Spero che sia un esempio così. No, bene, nel garage intanto ci provo. Parte questo, scherzi a parte. Invece il cockpit di un aereo, come sappiamo, è molto più complesso. I nuovi mezzi digitali, assomigliano di più a quella pannello di controllo, e quindi non possono a quello dell'aereo, per cui non possono essere gestiti e maneggiati con così tanta semplicità con cui si faceva con i mezzi, come dire, tradizionali. Per cui quel taxista in realtà è molto affascinante, perché apparentemente con un semplice acquisto di AdSense, AdWords, che immagino siano quelli, anche perché il prodotto era... Per me lei parla arabo, ma... No, insomma, di pubblicità contestualizzata online, in realtà non è per niente semplice. Non è un buon esempio, perché può far pensare. Io ho capito che lui avesse comprato le parole chiave. Sì, che è questo. Pubblicità contestuale. Questo così si capisce benissimo la mia ignoranza. Quando gli utenti, profonda quando in gli utenti cercano autista a Milano, probabilmente Mantova trovano lui prima di un altro. Sì, Lago che di ha Garda, comprato Maltesa. Lago di Garda, eccetera, eccetera. Però non è così semplice, è tutto molto più complesso. Per cui ecco, può essere fuorviante, no, quell'esempio, anche se è molto affascinante. E bisogna diventare innanzitutto utenti, che è il modo migliore per essere esperti, e quel taxista, quell'autista probabilmente lo era. Per cui seguire le ultime mode del momento rischia di far andare a sbattere poi le aziende che investono, specie le piccole. Quindi voi state facendo formazione su questo, gli associati? Ma in questo momento, nella fattispecie, una delle attività, peraltro io appunto insegno linguaggi digitali, quindi è un lavoro insomma molto, molto più ampio, ma tra le attività ho anche seguito Confindustria Veneto proprio in questo roadshow che è andato nelle singole province, nelle 7 province venete, a spiegare agli imprenditori attraverso convegni dedicati che cosa significava, che cosa poteva rappresentare il digitale per la crescita economica. C'è una ricerca di Boston Consulting recente che dice che sostanzialmente il valore della internet economy in Italia nel 2010 è stato di 56 miliardi di euro, per cui insomma stiamo parlando di cifre importanti. 4 manovre finanziarie. È 4 manovre finanziarie, 2% del PIL. Se fosse un'industria, un settore, sarebbe, la crescita avrebbe contribuito all'8% del PIL. Sì, prevede Boston che nel 2015 il mercato c'è tutto. Mi dà un esempio però a questo punto di, non so, io devo purtroppo sempre concretizzare nel programma, far capire, mi rendo conto che se aveste un'idea vincente non è che me la date adesso così gratis, ve la usate, vi fate una società, però mi faccio un esempio il più concreto possibile, poi lo chiederò chiaramente anche Angelini e Borsotti, si preparino su cosa potrebbe un'impresa manifatturiera, dei servizi, quello che vuole, dove non sta usando la rete, dove non capisce che lì c'è ciccia, che c'è. Allora, c'è mercato e ci sono soldi e fatturato. Le dico cosa non fanno innanzitutto. L'83% risulta, non, secondo una ricerca Yulm, non aver implementato nel proprio sito alcun banale link di like a Facebook. Sappiamo che oggi in Italia sono circa 20 milioni di utenti registrati. Che tradotto a Facebook, per chi non capisce. Beh, è un tastino che è gratuito, che con una riga di codice si può inserire in qualunque pagina. Quando un utente capita dentro la pagina di quell'azienda, può cliccare su quel like e quindi cliccare su un tastino per cui tutti i tuoi amici su Facebook sanno che a te è piaciuta quella pagina e quindi aumenti le probabilità di farti vedere, così come la maggior parte delle aziende nel footer, anche qui nel, ovvero in fondo alla pagina del sito, non c'è il numero di telefono. Oppure sono creati con tecnologie flash, che per qua, senza stare a creare dispute tra flash e non flash, ma di fatto 120 milioni di dispositivi nel mondo, cioè quelli che montano iOS, iPad, iPhone, eccetera, non sono in grado di vedere flash. Quindi quel direttore d'azienda o quell'imprenditore che è tutto felice nel vedere la grande animazione del suo straordinario sito che assomiglia alla televisione che conosce bene, poi di fatto 120 milioni di persone nel mondo potenzialmente non lo possono vedere. Per cui bisogna partire, secondo me, dai fondamentali, piuttosto che inseguire le mode. Tre anni fa, se non si aveva un'isola su Second Life non si era nessuno, e adesso se non si ha una pagina, che fine ha fatto Second che fine Life? Ha fatto Second Life, che ci hanno rotto le scatole anche qui dentro, certo, perché volevano che diventassimo dei conduttori virtuali, la radio su Second Life. Che fine ha fatto? Belle queste bufale. E adesso si corre su Facebook a fare la pagina. Facebook è importante, ma bisogna portarli a casa gli utenti da Facebook, non correre su Facebook. Allora, meteo, pubblicità, poi due consigli anche dagli altri due ospiti, a partire da Gianluca Borsotti, poi la borsa che ha chiuso con un meno 1,15%, il Monte dei Paschi, il caso di oggi, meno 7,60, pesa il collocamento di azioni da parte della fondazione, e poi il tema dell'assedio a Tremonti, quindi torniamo sui temi classici della politica economica. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciassette e quaranta minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, poi passiamo alla borsa, come promesso, all'arresto di Simone Cimino e ai 10.000 esuberi in Banca Intesa e all'accerchiamento di Tremonti. Però, visto anche il numero di messaggi, vorrei concludere sul tema di come internet, in generale la rete, possa aiutare le imprese. Oltre ai dati che forniva prima Camisani Calzolari, ve ne do due rapidissimi. 17 miliardi di euro è stato il valore nel 2010 dell'indotto di internet, tra cui entra anche chi ha fatto delle scelte non comprando su internet, ma guardando prima su internet e poi facendo l'acquisto magari al telefono o andando in negozio. E questa è una cifra. 75 miliardi di euro è la previsione dell'intero giro d'affari del settore nel 2015, quindi dopodomani. Questo per dire che c'è ciccia e c'è trippa per gatti in periodi di vacche magre, oggi sembra lo zoo. Questo programma, che cosa ha detto Camisani Calzolari? Per favore, chiedo ai miei ospiti, parlate con meno inglesismi possibile. Chi vi parla non ci capisce molto e quindi è empatico con molti ascoltatori. Pochi inglesismi, non fate come la finanza o come certi medici che non si capisce mai quando parlano. Camisani Calzolari diceva che se tu hai un sito ma poi non metti la possibilità di, con un'icona di Facebook, di girare quel sito a tutti i tuoi amici su Facebook. Immaginate, 100 visite con 1000 amici sono già 100.000 persone. E se usi una tecnologia, quella flash, che non va sui telefonini dell'Apple, quindi iPad, iPhone e quant'altro, compi degli errori madornali. Gianluca Borsotti, amministratore delegato di EBIT Innovation, due consigli concreti operativi per gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti in ascolto. Guardi, io sì, partirei da questa constatazione. Attualmente noi abbiamo risultati di ricerca che ci dicono che internet viene utilizzato dalla gente per informarsi prima di decidere l'acquisto. Ormai il processo d'acquisto si decide sulla rete. Verissimo, turismo in primis, ma non solo. Esattamente, per cui non è vero che se uno non vende su internet, internet non serve. Internet serve perché la gente che va su internet decide l'acquisto e poi ti viene a comprare in negozio. Per cui, anche qui, continuando nella serie di consigli banali, ma voglio dire, mettiamo lo storlocheto, cioè dove sono mettiamolo? Cosa? Lo storlocheto. È parlate italiano, io vi odio a voi del mondo dell'internet, dell'information technology, perché siete come quelli della finanza, parlate con troppi inglesismi, me lo dica in italiano. Mettiamo sul sito l'elenco dei nostri punti di vendita, diciamo ai nostri visitatori dove si può comprare il nostro prodotto. Forniamo le informazioni che dicono perché il nostro prodotto è migliore della concorrenza, diamo delle promozioni, diamo degli elementi in cui la gente, quando entra sul nostro sito, abbia qualcosa che poi ci spinge ad andare in negozio a comprare. L'internet non è una cosa che è lì separata dal mondo reale, internet è bene la connessione con il mondo reale, questo dobbiamo pensare. E poi un altro consiglio. Store locator, per cui è una mappa di dove io vendo il mio prodotto? Esattamente. Una Google Map, perché che sarà? Una roba del genere, no? Sì, beh, oddio, in realtà ho detto dalla sua titubanza, ho detto una bestialità, scuote la testa. No, anche, vabbè, voglio dire, ci anche Google Map, ma la tecnica di regia. Un elenco di dove si possa comprare, proprio elenco vabbè. Di negozi dove si possa comprare il proprio prodotto. Poi Google Placement sicuramente è un'altra... Quindi indicare, no, ha ragione, le informazioni, torniamo nell'alveo di quello che diceva prima Camisani Calzali, informazioni con pratiche, e ha ragione lei a dire, Borsotti, che il fatto che io non acquisti magari la prenotazione alberghiera via internet non vuol dire che non abbia scelto quell'albergo grazie a internet. Poi chiamo telefonicamente perché il rapporto umano è importante ancora, però pensate a quello che è nel mondo del turismo, ne abbiamo parlato molte volte, l'effetto che sta avendo TripAdvisor, che è abbastanza inviolabile, cioè avere un commento negativo su TripAdvisor fa sì che uno scelga un albergo piuttosto che un altro, con la devastazione degli albergatori che pensavano tanto il cliente, anche se non è soddisfatto, se ne va, non lo rivedo più, ne avrò un altro, e no, quello scrive su TripAdvisor e tu non rivedi né quello né i potenziali e futuri. L'ho interrotto, Borsotti, prego. No, l'imprenditore secondo me deve capire che il web ormai è il luogo dove si forma la decisione d'acquisto del proprio consumatore. È lì che deve convincere il consumatore, l'acquirente, che il suo prodotto è quello giusto. E questa è la cosa principale del web. Poi voglio dire che questo vada a comprare in un negozio fisico non ha importanza, però sul web il consumatore decide l'acquisto. Per cui l'importanza del sito, dei contenuti che si danno, delle spiegazioni perché il proprio prodotto è migliore, questo è fondamentale comunicare. Dove comprarlo, appunto, l'elenco dei negozi, dove poterlo comprare, questo è fondamentale. E poi... Sì, prego. Ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di dire, voglio dire, tanti imprenditori sviluppano il proprio sito perché bisogna svilupparlo e poi lo lasciano morire lì così. No, non si fa. Il sito deve essere qualcosa che va curato, aggiornato e, per utilizzare un termine molto in voga adesso, indicizzato su Google. Cioè devo riuscire a sviluppare il sito in maniera tale che poi i motori di ricerca mi trovino, nel senso che se io cerco scarpe a Lecco, il mio sito deve contenere queste parole in modo tale che chi mi cerca mi trova il mio sito e venga a comprarmi da me. E non Lecco le scarpe. Giustamente, Angelini, prego, chiudiamo perché ho un minuto scarso per lei. Un esempio concreto, lei non è, come sono io, uno specialista, però insomma... Ma io comunque ho partecipato, ad esempio, recentemente a un problema, a un'indagine su come valorizzare il Made in Italy tramite il web. E ci sono due filoni di investimento che sono chiarissimi, sono il video e il mobile. Per esempio, oggi mettendo uno smartphone, cioè un telefonino d'oro di telecamera, di fronte a una bottiglia d'olio piuttosto che di vino, si riescono a capire le proprietà magari organolettiche di quell'olio, il fatto che visivamente si possa far vedere che è stato frantogliato a Montalcino piuttosto che in Umbria e non su una nave tunisina, ed è ovvio che quando questo olio viene venduto magari a Shanghai o a Los Angeles, la possibilità di valorizzare il Made in Italy, così come inquadrare una poltrona particolarmente pregiata e far vedere che è stata cucinata a mano piuttosto che su una catena di montaggio da qualche parte, è un modo in cui internet riesce a trasferire il valore aggiunto della produzione e del genius loci, diciamo così, rispetto al prodotto. Internet in questo momento è un elemento abilitante, diciamo, quelli che sono gli elementi differenziali del Made in Italy che prima non si riusciva in qualche modo, cioè tra la bottiglia d'olio e il fatto che io veda dove l'olio viene raccolto, l'azienda, e abbia tutta un'altra esperienza, qualcuno potrebbe chiamarla più emozionale, quella te la dà solo internet. Secondo me sì, ecco, il tema è non confondiamo internet con la postazione fissa. Ormai diciamo il mondo digitale, l'applicativo, l'applicativo mobile, la geolocalizzazione è un ambiente che in qualche modo è onnicomprensivo, non è più soltanto la postazione fissa. C'è ancora chi pensa o ti risponde facendo lavori anche molto importanti: domani vado in ufficio e leggo la tua email. Allora, questa è una cosa che nel mondo anglosassone sarebbe come dire ti mando un telegramma o il piccione viaggiatore per risponderti, perché ormai da BlackBerry all'iPhone e la tendenza è questa. Poi siamo tutti d'accordo che meno uno è dentro un settore produttivo, oppure se uno fa il chirurgo probabilmente non ha bisogno di avere il mobile, ma in tutto il mondo dei servizi stiamo parlando delle imprese. Le faccio un altro esempio estremamente pratico, perché mi è successo a me 5 minuti fa. Io sto cercando una persona per un posto di lavoro, quindi una cosa che in questo momento dovrebbe essere molto appealing sul mercato. Molto eccitante, basta con l'inglese. Molto eccitante, ha ragione, molto eccitante, dovrebbe essere pieno di richieste di persone, di invio di curriculum. Non sono riuscito a trovare nessuno in 2 mesi. Ho fatto un annuncio, diciamo, in un ambiente social network che si chiama LinkedIn, che è l'ambiente di tutti i professionisti. Allora, l'ho messo dove tutti i curricula finiscono. Me ne sono arrivati 25 in un'ora e mezza, di cui almeno 5 o 6 assolutamente. Cioè lei ha fatto l'annuncio normale via carta stampata, adesso non voglio tirarmi la zappa sui piedi, però ha fatto di testa, amici, l'annuncio con amici, cacciatori di testa, carta stampata, zero. L'ha messo su LinkedIn, zero, che è un sito, però diciamo un livello, come basso. Dire, molto basso di. L'ha messo sul sito Redemption, ma quella poi facciamo una puntata sul perché chi lavora nell'information technology non sa parlare italiano e parla solo inglese, Corretto. La facciamo. Però l'ha messo su LinkedIn, che è il sito dove vengono scaricati i curricula, dove si incrociano domande e offerte, e ha ricevuto 25 domande. Per chiudere, Angelina, l'avete già assunto questo? Ho 3 colloqui fissati per lunedì mattina. Ecco, sappiate che a Demoscopea cerco una persona, vediamo poi se la radio batte internet, su questo forse avrebbe delle sorprese. Chiamate Fabrizio Angelini, sono legati a Demoscopea, stanno cercando una persona. La posizione? È un ricercatore quantitativo junior. Che vuol dire? Cioè, qualcuno soldi? Che faccia le ricerche, diciamo, che faccia girare i numeri. Stipendio? Statistica. Stipendio, siamo un entry level, quindi siamo intorno ai 1300 netti. 1300? Sì. Vabbè. Sì. Comunque, no, anche per vedere appunto fare la gara internet radio, a parte gli scherzi, grazie a tutti e tre, grazie a Marco Camisani Calzolari, direttore scientifico del progetto Confindustria Veneto per promuovere l'uso del digitale e appunto docente di linguaggi digitali alla IULM di Milano, a Fabrizio Angelini, amministratore delegato di Demoscopea, a Gianluca Borsotti, amministratore delegato e fondatore di eBit Innovation. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. E adesso con un po' di ritardo il traffico, chiedo venia, la borsa, meno 1,15%, il caso Monte dei Paschi, l'arresto di Cimino, gli esuberi di Banca Intesa e l'assedio a Tremonti, 349-238-6666 per i vostri sms traffico. Strade in diretta. Il traffico è molto intenso in uscita dalle grandi città, i consueti spostamenti serali si aggiungono le partenze per il ponte del 2 giugno, in uscita da Roma sulla 24 code fra la tangenziale est e il grande raccordo anulare, intorno a Milano molto trafficato il tratto urbano della A4 verso Brescia con code a partire da Rho. Sull'autosole code a tratti verso sud tra Fiorenzuola e Parma, da Modena a Bologna e poi nell'area di Firenze verso Roma, trafficata la 14 Adriatica in uscita da Bologna verso Ancona e anche la 22 del Brennero tra Carpi e l'innesto con l'autosole. Traffico intenso intorno a Genova e sulla 12 Genova-Livorno, code fra Recco e Rapallo verso Livorno. Infine sulla 28 Porto Gruaro-Pordenone, code di circa un chilometro per lavori fra Pordenone e Cimpello verso la A4. È tutto, ci risentiamo tra meno di mezz'ora. Promo 24. Il sughero protegge il gusto e si prende cura delle cose buone. Aprire una bottiglia di vino tappata con il sughero non è un semplice gesto, ma molto di più. Si promuove la cultura e la tradizione del mangiare e bere bene. Il sughero è l'unica soluzione naturale per conservare il vino, ha caratteristiche che nessuno riesce a imitare o superare. È l'unico materiale che favorisce la corretta evoluzione e conservazione del vino. Scegliendo di aprire una bottiglia di vino col tappo di sughero, si protegge il gusto, lo charme e il pianeta. Il mondo del sughero è su Facebook, alla pagina Io sto col sughero o sul sito ilsughero.org. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni, la Borsa, Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Eleonora. Allora partiamo subito dal caso. Allora, le banche oggi tutte male in Europa. Però Monte dei Paschi fa peggio della media, per essere buoni, meno 7,60%, mentre Banco Popolare perde il 3,40%, Ubibanca il 3,30%, Popolare di Milano perde il 3,1%, Intesa il 2,80%, Unicredit il 2,60%, chiudiamo con Mediobanca meno 1,36%, Monte dei Paschi pesa il collocamento di azioni da parte della Fondazione? Esatto, assolutamente sì. Monte dei Paschi ha accusato la peggior performance di Piazza Affari, come hai detto tu, meno 7,6. Ricordiamo che quest'oggi la Fondazione di Monte dei Paschi, avvalendosi della banca d'affari Goldman Sachs, ha collocato sul mercato 450 milioni di azioni privilegiate, oltre il 6% del capitale, e quindi questo ovviamente ha impattato sull'andamento del titolo. Secondo indiscrezioni, il prezzo a cui sono state collocate le azioni è lievemente superiore al prezzo finale, 0,8325, le azioni invece sul finale hanno chiuso a 0,81 euro. Poi c'è il caso Nokia, già ieri ha perso il 17%, oggi per non farsi mancare nulla perde un altro 7%, con conseguenze su tutto il settore. Ha lanciato un avviso su di utili più bassi del previsto nel 2011, si chiama in gergo Profit Warning, e ha avuto ricadute anche oggi su ST Microelectronics. Anche Telecom Italia non va bene, ma lì c'è più, ma oddio, meno 0,25, lì c'era la vicenda dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Eleonora. Esatto, infatti oggi è di nuovo andato male tutto il settore, un po' il settore tecnologico, non tutto, ma ovviamente i titoli legati a ST sono andati male, mi riferisco in particolare a ST, che ricordiamo è il primo fornitore dell'azienda appunto di produttrice di cellulari, e così anche oggi le azioni del gruppo italo-francese hanno accusato una flessione dell'1%. Sulla scia appunto di Nokia. Per quanto riguarda invece il settore delle TLC, in Europa ha perso l'1,79%, anche Telecom Italia, sebbene sul finale si sia ripresa, ha registrato un ribasso dello 0,25%, continuano le azioni a rimanere sotto un euro. I titoli ovviamente hanno risentito dell'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'uso eccessivo dei cellulari, che potrebbe avere impatti sulla salute, in particolare potrebbe provocare, sembra, tumore, anche se questo poi è stato... Guardatelo bene quello che ha detto, perché noi abbiamo visto il testo ieri sera, ce ne siamo occupati per il GR. Insomma, bisogna stare attenti, perché il danno, poi se uno va a leggere, è veramente contenuto, lo dico perché l'abbiamo proprio guardato. Comunque, vabbè, non entriamo in temi che sono più da essere benessere che da Focus Economia, lo dico a me stesso. Andiamo invece avanti con chi bene oggi si è mosso. Tods più 2,60, Diasorin più 1,70 e poi Campari mezzo punto. Tods. Sì, Todd di recente spesso imbocca la strada del rialzo, in questo caso non ci sono state motivazioni particolari se non il fatto che gli investitori spesso riprendono in mano le azioni del settore del lusso, del resto le società del lusso sono quelle che hanno vantato a livello di bilancio una delle performance migliori in tutta Europa, infatti i maggiori gruppi del lusso hanno vantato progressi del fatturato e anche dell'utile, spesso a doppia cifra. Ancora tra i titoli, Fiat in attesa dei dati auto, però bene era andata nei giorni scorsi. Sì, Fiat era andata molto bene nei giorni scorsi dopo le indicazioni fornite su un possibile rafforzamento del lingotto in Chrysler, visto che il lingotto potrà usufruire delle opzioni sia che ha verso il governo canadese che verso quello americano e anche verso il sindacato dei lavoratori UAV. E, ovviamente oggi ha seguito un po' l'andamento del mercato, sono scattate le prese di beneficio, poi c'è un po' di nervosismo, come hai detto tu, sui dati auto che negli ultimi mesi abbiamo sempre visto che Fiat non è che abbia fatto bene per quanto riguarda le immatricolazioni. No, ha sempre fatto peggio del mercato, possiamo dirlo tranquillamente, non c'è nessun problema. Tra l'altro, effetti sull'arresto di Simone Cimino? Sì, effetti perché... ma puramente emotivi, nel senso che sono andate molto male, hanno perso sul finale il 4,69%, ma in verità nel pomeriggio erano arrivate a perdere molto di più. Le Cape Live, società che è stata fondata da Cimino. D'altra parte in questo momento Cimino non ha più alcun ruolo all'interno della società, quindi è stato probabilmente proprio una reazione emotiva del mercato. Miglior titolo, le buone società più 22,9, Neurosoft più 12,30, poi Fintel più 7,40, Stefanel più 7%, Unilever più 6,30, peggior titolo il Monte dei Paschi di Siena appunto, e CareSelf meno 6,90%, l'arresto di Cimino, gli esuberi d'Intesa, l'assedio a Tremonti dopo il GR. Grazie, l'onora Michele, Radio Corri sulle 24 ore, 349-238-6666 per i vostri sms. Otto e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Prima di arrivare al tema dei consumi, vorrei darvi alcuni aggiornamenti perché è in corso appunto la marcia di 2000 imprenditori, in marcia silenziosa a Treviso, dallo stadio del rugby dove si è tenuta l'assemblea degli industriali all'area Piani dove c'è la nuova sede di un'industria a Treviso, marcia silenziosa. Inutile forzare le interpretazioni e le analisi, è arrivata questa decisione dopo un direttivo Confindustria del Veneto, sostanzialmente è un disagio per quello che è la situazione dell'industria trevigiana e del Veneto, perché ha l'appoggio anche del presidente degli industriali veneti Andrea Tomat. Non è nuova una manifestazione del genere, però era diverso il caso degli anni 90 quando appunto presidente Tognana al tempo furono consegnate le chiavi degli imprenditori. Sentiamo Marcegaglia, che è presidente di Confindustria, presente oggi a Treviso per l'assemblea degli industriali. Non è una manifestazione contro nessuno, è una manifestazione dove gli imprenditori dicono: noi camminiamo sulle nostre gambe da sempre, non chiediamo niente di particolare, chiediamo solo di poter lavorare, come dire, seriamente, senza intralci, e quindi è una manifestazione di impegno civile, anche a dimostrazione del, soprattutto in questa terra, di quanto le aziende contribuiscono anche proprio alla crescita della società, ad aiutare tutta la società. È interessante che tra l'altro sfilano assieme agli imprenditori anche gli artigiani del Veneto. È un disagio, mi sembra molto chiara la lettura della presidente di Confindustria, no? Lo dico perché alcuni hanno dichiarato ma è una manifestazione contro il sindacato, contro il governo, insomma è una manifestazione per un disagio profondo di una parte importante e produttiva del paese. Altra notizia, noi non ci dimentichiamo le cose, lo dico in questo caso al governatore al presidente della regione Lazio, Renata Polverini, forse qualcuno ha già capito dove voglio arrivare.